Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Nell'ultima settimana abbiamo distribuito 36,2 milioni di mascherine alle regioni e il 40% in più di quanto distribuivamo fino alla settimana precedente. Dall'inizio dell'emergenza ne abbiamo distribuiti 208,8 milioni. Sono una quantità sufficiente, le regioni hanno 55 milioni nei loro magazzini. Le regioni, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, hanno 55 milioni di mascherine nei loro magazzini. Questo oggi lo ha ripetuto il commissario all'emergenza Arcuri, anche se ancora non si capisce perché queste mascherine non si trovano e soprattutto al prezzo che avrebbe indicato il governo a 61 centesimi, IVA inclusa. Aspettiamo con fiducia, diciamo così. Speriamo che il mistero si dissolva il prima possibile. A proposito di misteri, tra le varie temi di questa puntata, l'inchiesta sulla morte di un giovane parà che, pensate, risale al 1999 a Pisa, che secondo gli inquirenti sarebbe stato vittima di un efferato episodio di nonnismo dei suoi compagni, e finalmente forse il cerchio in parte si chiude. Poi c'è l'inchiesta aperta dalla Procura di Milano per gli spregevoli insulti e minacce contro Silvia Romano appena tornata in Italia dall'inferno in cui è stata tenuta prigioniera per un anno e mezzo. E poi torneremo anche sulla politica, sul decreto rilancio che dovrebbe rilanciare l'economia italiana, però per il momento è ancora, diciamo, in stallo, che è un pochino in contraddizione con il termine rilancio. Insomma, capiremo che cos'è che ancora lo blocca, a parte la complessità naturalmente, perché già ieri l'abbiamo definito un decreto mostro per tutte le cose che contiene. Quindi allacciate le cinture, che tra poco si parte con tantissimi temi, prima la sintesi della giornata e poi gli argomenti con gli ospiti. 349-238-6666 è sempre il numero per SMS e WhatsApp, 349-238-6666, altrimenti come sempre i vostri commenti li potete scrivere comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Il Twitter durante la diretta è quello di Effetto Notte, oppure durante il giorno, quando volete Roby Y, la Y, linetta bassa, Giordano. Il coronavirus in Italia: sono 1.402 i nuovi positivi, 172 morti in un giorno, in leggero aumento i nuovi contagi. Fase 2, forse da lunedì sarà possibile vedere gli amici. L'Emilia Romagna intanto è pronta ad aprire le spiagge, la Liguria chiede la mobilità fra regioni dal 1 giugno, i sindaci scrivono a Conte, rischiamo il default. A Effetto Notte ospite sarà il sindaco di Firenze Nardella. Decreto rilancio ancora in stallo, da risolvere il problema delle coperture, il nodo politico della regolarizzazione dei braccianti. Task Force e Comitato Tecnico Scientifico. Conte li completa con diverse esperte per garantire la rappresentanza di genere. Nuovo interrogatorio per Silvia Romano, chiuso il suo profilo Facebook dopo pesanti minacce e apertura di un'inchiesta. Il caso del Parascieri fu ucciso, chiuse le indagini su 3 caporali. La Procura Militare chiude quindi il cerchio sul delitto avvenuto a Pisa nel 1999. Formula 1, Vettel lascerà la Ferrari a fine anno. Per ottenere il massimo, dice, bisogna essere in sintonia. Partiamo quindi, come sempre, dai dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia. Sono 81.266 i malati di Covid-19 nel nostro paese, in calo rispetto a ieri di 1.222. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 836. Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30.911, con un incremento di 172 in un giorno. I pazienti guariti in Italia sono 109.039, con un incremento di 2.452 rispetto a ieri. E quindi questa è la seconda settimana della fase 2, con le regioni che, dopo l'accordo di ieri sera con il governo, premono per maggiori riaperture. Ieri l'accordo, lo ha spiegato qui Effetto Notte il presidente della conferenza delle regioni, come ricordate, Stefano Bonaccini. Dal 18 maggio sarà forse possibile tornare a far visita ad amici e conoscenti. Il governo sta infatti valutando l'ipotesi di eliminare il vincolo che consente gli spostamenti solo per vedere i congiunti, oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute. Il ministro per gli affari regionali Boccia frena intanto sulla data del 1 giugno per una ripresa della mobilità interregionale. Tutto dipenderà dal monitoraggio sulla diffusione del virus nelle singole regioni. Sarà più facile spostarsi fra quelle a basso rischio, mentre per le regioni ad alto rischio, spiega, ci saranno inevitabili limitazioni. Il ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha invece visto le associazioni delle imprese per fare il punto sulle linee guida su ristorazione e commercio al dettaglio in vista delle possibili riaperture dal 18 maggio. Sempre in tema di riaperture, fa discutere la decisione del sindaco di Borgo Sesia in provincia di Vercelli, che aggirando la chiusura delle scuole ha accolto una decina di bambini nella ludoteca e nella palestra del comune, un progetto in contrasto con le norme, ha subito avvertito il Ministero dell'Istruzione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di riaperture, da lunedì si potrà andare in banca senza appuntamento. L'accordo sindacati ABI, cioè con l'Associazione delle Banche Italiane, prevede ingressi contingentati nelle filiali con rapporto massimo di 1-1 tra numero di clienti e lavoratori. Questo per quanto riguarda le banche, ma oggi sono arrivate anche le nuove linee guida per spiagge sicure. Il settore, che vale 30.000 imprese, 100.000 addetti e un terzo dei turisti in Italia, teme di non farcela. Tutti in spiaggia ma a debita distanza. Secondo le linee guida di INAIL e Istituto Superiore di Sanità, per evitare il contagio serviranno almeno 5 metri tra le file di ombrelloni e almeno 4 metri e mezzo tra gli ombrelloni della stessa fila. Sdraio e lettini ad almeno 2 metri, salvo quelli dei familiari. Entrata e uscita solo con la mascherina, sempre obbligatoria per il personale. Vietati gli assembramenti sulla spiaggia, davanti alle docce o al bar. Niente attività ludico-sportive, giochi di gruppo e ogni altro assembramento. Chiuse le piscine, niente servizio al banco nei bar, sanificazione più volte al giorno. Sulle spiagge libere, assembramenti vietati e consigliati il numero chiuso con controllo agli ingressi. Le associazioni del settore ritengono queste norme inapplicabili in molte parti d'Italia e chiedono la proroga delle concessioni in essere fino al 2033, norma che dovrebbe entrare nel decreto rilancio. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha effetto giorno. 4 metri a occhio sembrano molti anche a me, non vedo per quale ragione io debba stare a 1,5 metri da una persona quando la incontro per strada e debba starci a 4 metri sulla spiaggia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spiagge quindi che tentano di ripartire mentre le città ad alta vocazione turistica sono in affanno. I sindaci di Milano, Venezia, Rimini, Firenze, Roma, Napoli e Palermo scrivono al presidente del Consiglio Conte avvertendo che se non arrivano i fondi rischiano il default. E per parlarne tra poco qui a Effettonotte sarà ospite il sindaco di Firenze Dario Nardella. Imprese, famiglie e amministrazioni da più parti si chiedono aiuti al governo, che però si è incagliato sul decreto rilancio per le liti nella maggioranza. Ancora da sciogliere il tema della regolarizzazione dei braccianti e capire dove trovare le coperture per alcune spese. Ci sarà modo nel corso di questa puntata di approfondire questi temi. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'esigenza di garantire una rappresentanza di genere, ha integrato il comitato di esperti diretto da Vittorio Colao con 5 donne. Allo stesso modo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, su proposta del Presidente del Consiglio, integrerà il comitato tecnico-scientifico con altre 6 personalità femminili. E torniamo al tema delle mascherine, che al prezzo calmierato ancora non si trova. È un fatto che l'Italia abbia ancora oggi problemi di produzione, approvvigionamento e distribuzione di mascherine. Il prezzo imposto su quelle chirurgiche di 50 centesimi più 11 di IVA scoraggia gli esportatori internazionali che si rivolgono ad altri paesi. Ma questo non cambierà, spiega il commissario Arcuri, da molti messo sotto accusa. Il prezzo delle mascherine chirurgiche è e resterà quello. E poi c'è la burocrazia che complica lo sdoganamento, ma finalmente si cerca di porre il rimedio con un provvedimento ad hoc. Che accelera le procedure per lo sdoganamento delle forniture che i distributori potranno acquisire dall'estero ove le troveranno. Per superare i problemi si tenta anche la strada dei tabaccai. Un accordo è in programma nei prossimi giorni e si punta sulla rete che distribuisce le sigarette in 7.400 comuni. La disponibilità nei negozi e nei supermercati è a macchia di leopardo, ma un po' ovunque le mascherine stanno arrivando, spiega Confcommercio, che sta ricevendo l'interesse di tanti piccoli negozi come cartolerie o ferramenta. Secondo l'associazione si aggiungeranno migliaia di punti vendita. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco, questo per rispondere anche a Henry che dice: Roby, ma il Arcuri ci fa 55 milioni di mascherine monouso nei magazzini, vuol dire neanche una testa per ogni italiano. Però appunto, rispetto a quello che ha detto e al fatto che saranno distribuite anche per esempio in cartolerie, negozi di ferramenta eccetera, speriamo insomma che nel più breve tempo possibile possano essere trovate appunto al prezzo calmierato che è stato stabilito dal governo. Ancora un po' di pazienza. Intanto la Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla scelta di Regione Lombardia di incaricare con affidamento diretto la multinazionale Diasorin per la sperimentazione dei test sierologici portata avanti in collaborazione col Policlinico San Matteo di Pavia. Il fascicolo è stato aperto dopo l'esposto di un'impresa concorrente, la Tecno Genetics. Maxi blitz antimafia tra Palermo e Milano, 91 arresti tra cui boss storici. La lotta alla mafia è una priorità ancora più in questo momento, commenta la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. La crisi per l'emergenza coronavirus agevola l'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e sociale. Lo rivelano le carte dell'inchiesta che ha portato in carcere 91 tra boss, gregari, estorsori e prestanome, un maxi blitz coordinato dalla DDA di Palermo contro i clan dell'Acqua Santa e dell'Arenella. Lo sottolinea il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. In questo momento dice che lo Stato deve essere vicino ai cittadini e alle imprese, che possono diventare facile preda delle organizzazioni criminali. Dai cantieri navali al mercato ortofrutticolo di Palermo, dalle scommesse online alle corse dei cavalli fino al commercio delle capsule di caffè e degli orologi di lusso. Decine le attività gestite lungo l'asse Milano-Palermo dalle storiche famiglie mafiose dei Ferrante e dei Fontana. Associazione mafiosa, estorsione, ricettazione, riciclaggio, traffico di droga, frode sportiva e truffa. Fa le accuse contestate a molti nomi su cui gli inquirenti indagano da decenni. Ai domiciliari anche un ex concorrente del Grande Fratello, Daniele Santoianni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo in seguito alle minacce contro Silvia Romano, la cooperante rientrata ieri a casa dopo la liberazione in Somalia, e ne parleremo nel corso di questa puntata. E dopo oltre 20 anni, svolta nel caso della morte del paracadutista Emanuele Sceri, il giovane parà fu ucciso. Chiuse quindi le indagini su 3 caporali, la Procura Militare di Roma chiude il cerchio sul delitto avvenuto a Pisa nel 1999, e anche di questo caso parleremo nel corso di questa puntata. All'estero adesso vedo un aggiornamento che riguarda Wuhan, almeno in questo momento sul Corriere della Sera. Dice: timori di una seconda ondata a Wuhan, come sapete è la città cinese che è stata il primo focolaio del coronavirus. Wuhan vuole testare 11 milioni di persone in 10 giorni. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, il numero delle vittime a causa del coronavirus probabilmente è molto più elevato del bilancio ufficiale. Lo ha detto oggi il virologo americano della Casa Bianca Anthony Fauci. Attualmente negli Stati Uniti si contano oltre 80.000 decessi, ma lo scienziato dice che ce ne sono molti di più e avverte anche senza gradualità nelle ripartenze e nelle riaperture le conseguenze saranno molto gravi. La Commissione europea propone un approccio in 3 fasi per la graduale riapertura delle frontiere tra paesi che hanno profili di rischio per il Covid-19 simili tra loro. Lo anticipa l'online di Euroactive. Bruxelles presenterà le linee guida sui confini domani nell'ambito di un pacchetto più ampio sul turismo. E parliamo di infermieri, che naturalmente insieme ai medici, donne e uomini, sono stati e continuano ad essere estremamente preziosi. Forse ce ne siamo accorti soprattutto in questo momento. È salito a 39 il numero degli infermieri morti per aver contratto il coronavirus nell'esercizio del loro lavoro, lo rende noto la Federazione degli Ordini Infermieristici, sottolineando che tra gli iscritti si contano anche 4 suicidi e oltre 12.000 contagiati. 500.000 infermieri italiani, donne e uomini, rappresentano la metà di tutti gli operatori sanitari, 270.000 lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale. Questa pandemia ha mostrato a tutti il valore, ha detto Barbara Mangiagalli, presidente della Federazione degli Ordini Infermieristici, la professionalità e la preparazione, non solo scientifica, dice, ma umana ed etica degli infermieri. E questo lo dice tra l'altro nella giornata internazionale oggi degli infermieri. Per chiudere lo sport, Sebastian Vettel lascerà la Ferrari a fine anno. In questo sport, per riuscire a ottenere il massimo, bisogna essere in perfetta sintonia, ha spiegato Vettel. Ed io e la squadra abbiamo realizzato che non esiste più una volontà comune di proseguire insieme oltre la fine di questo campionato. Ci avevano detto che la pandemia avrebbe rallentato, oltre alle nostre vite, anche i processi decisionali, tanto che si finiva per dare quasi per scontato che perfino in Formula 1 il 2021 sarebbe stato identico al 2020, ancora da cominciare il 5 luglio, in Austria e al virus piacendo. Rinvio delle modifiche regolamentari già deciso e vedrete che anche i contratti in scadenza verranno diluiti. Col cavolo, lì vanno veloce e allora si bruci in un attimo l'addio della Ferrari a Sebastian Vettel, invece di spegnerlo lentamente nel corso della stagione. Vi risparmiamo le morbide parole di circostanze di ringraziamento reciproco. In realtà il quattro volte campione mal sopportava il tergiversare della rossa sul rinnovo del contratto, mentre dall'altra parte si è deciso di accelerare sul futuro che ha la faccia di Carletto Leclerc. Quindi Seb andrà a scadenza, correndo quel che ci sarà da correre in questo anno disgraziato, da separato in casa, con tutte le conseguenze del caso, perché non ci saranno sconti di strategia. Poi potrebbe pure decidere di ritirarsi perché alternative alla sua altezza non se ne vedono, mentre la Ferrari ingaggerà un altro Carlo, Sainz, anni 25, pilota solido, non eccessivamente costoso e disposto all'ombra di Leclerc. Certo, gerarchie chiare, ma i sogni, Hamilton, anche Ricciardo o addirittura Schumi Junior, sono un'altra cosa. Carlo Gente, Radio 24, Sole 24 Ore. Bene, sintesi della giornata si chiude qui, naturalmente per cominciare tra pochissimo invece ad aprire alcuni temi da affrontare con gli ospiti. 349-238-6666, sempre il numero per i vostri commenti via SMS o WhatsApp. C'è un ascoltatore che dice, vabbè, a parte le mascherine, i guanti monouso dove sono? Ieri i farmacisti lamentavano anche la mancanza di alcol oltre ai guanti. Insomma, è un periodo che questi presidi, che sembravano cose di routine, anzi probabilmente non avevano mai attratto particolarmente la nostra attenzione se non per il personale sanitario, improvvisamente sono diventati così necessari e non si riesce ancora a averne una quantità sufficiente. Poi c'è la pagina Facebook di Effetto Note, come sempre, per i vostri commenti, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Ci sentiamo tra pochi istanti, dovremo raggiungere il sindaco di Firenze, Nardella. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi ricchi come sempre di informazioni, di sintesi della giornata, di aggiornamenti in diretta, dei vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 e poi pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo diversi vostri commenti ancora, per esempio questo ascoltatore ritorna sulla questione Bonafede e il magistrato Di Matteo, dice: qualcuno mi spiega perché Bonafede ha cambiato idea sulla nomina di Di Matteo nell'arco di 24 ore, ok, non ha ricevuto pressioni, ma qual è la motivazione? Ne abbiamo già parlato oggi, poi Bonafede, il ministro della giustizia, è tornato in questa informativa a parlarne in Parlamento. Insomma, lui dice che è stata sua discrezionalità che ha preso questa decisione. Da più parti ci si chiede quale sia stata la motivazione, sebbene in suo ruolo di ministro della giustizia avesse il diritto comunque di fare le sue scelte. A questo punto pare che ancora non abbia soddisfatto, diciamo, questa domanda su quale sia stata esattamente la motivazione. Ma adesso passiamo a un altro argomento, nel senso che tra poco torneremo a parlare del decreto rilancio, ex decreto aprile, e che il governo sta mettendo a punto per sostenere l'economia del nostro paese. Il decreto monster, come abbiamo definito ieri, per dire che per l'enorme mole articolata di provvedimenti che contiene, quindi anche la complessità, diciamo, di elaborazione e di definizione. Tanto è vero che c'è anche una situazione ancora probabilmente di stallo, ma ne parleremo tra poco. Intanto, per ridare slancio, a proposito di rilancio, alle attività produttive, come vi sto raccontando passo passo in questi giorni con Effetto Notte, insieme ai protagonisti, le regioni premono per velocizzare le riaperture e affinché a questo punto, dal 18 maggio, possano autonomamente decidere quali saranno, con quale cronoprogramma queste riaperture. Sul fine della scorsa settimana, qui Effetto Notte, vi ricordate, ne ha parlato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Ieri invece, dopo un nuovo incontro, naturalmente in videoconferenza, tra Conte e le regioni, queste sono state le conclusioni illustrate qui a Effetto Notte proprio ieri da Stefano Bonaccini, che è non solo presidente della Regione Emilia-Romagna, ma è presidente della Conferenza delle Regioni. Risentiamo quanto hanno concluso ieri in questo incontro con Conte. Credo che ci sia parecchia soddisfazione da parte di tutte le regioni. Dal 18 maggio il Presidente del Consiglio Conte ha affermato che questa è la volontà del governo. Sono le regioni a decidere cosa e come aprire. È evidente che le prime attività che potrebbero riaprire, se penso alla mia regione, penso a ristorazione bara, ai negozi al dettaglio, mi auguro anche parrucchieri, estetisti, tatuatori, insomma, noi attendiamo, e questo ho chiesto come appello al Presidente del Consiglio, bene le sue parole, bene che abbia raccolto l'appello, però ci aspettiamo nel giro di pochissimi giorni le linee guida, i protocolli nazionali, perché è chiaro che se inizia il 18 di maggio la nuova fase, non possiamo arrivare a sabato o domenica ad attendere ancora le linee guida. Ci siamo mossi nella stragrande maggioranza dei casi, al di là delle dichiarazioni, con atti che sono pienamente conformi all'ordinamento vigente, e adesso ci attendiamo, come abbiamo chiesto. Io sono molto contento delle parole del Presidente Conte e dei ministri Boccia e Speranza, e noi crediamo che alle parole di questa sera corrisponderanno i fatti nei prossimi giorni. Questo per quanto riguarda le regioni, ma anche i comuni, mi verrebbe da dire, parafrasando un noto titolo, nel loro piccolo si incavolano, si mobilitano, scrivendo una lettera appello a Conte. Il sintesi di questa lettera appello è questa: se il governo non manda ai comuni le risorse economiche necessarie, sarà un disastro, un default. Lettera firmata dal sindaco di Firenze Nardella, dal sindaco di Rimini Andrea Agnassi, rappresentante tra l'altro per il turismo per l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Luigi Brugnaro di Venezia, Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, Luca Orlando di Palermo, Beppe Sala di Milano, Virginia Raggi di Roma. Il sindaco Nardella, di Firenze, si è detto addirittura pronto, se non arrivano i fondi, a spegnere i lampioni della città. Quindi lei, sindaco Dario Nardella, lascerebbe Firenze la Magnifica al buio? Buonasera, sindaco. Buonasera. Ovviamente io ho usato questa espressione per far capire qual è la situazione della nostra città. Purtroppo noi sindaci siamo la prima linea e siamo sempre i destinatari di una lunga catena che comincia da Roma. Però alla fine quotidianamente siamo noi che stiamo con i cittadini, con le imprese, con le famiglie, e io dovrò decidere se non avrò le risorse. Taglio l'assistenza agli anziani, ai disabili, lascio la spazzatura per la strada, oppure faccio pagare le tasse alle imprese che sono già in ginocchio? È evidente che dovrò prendere delle misure drastiche, come farebbe anche un buon padre di famiglia. Mi auguro di non dover arrivare a un gesto del genere, e queste ore sono decisive, perché noi come sindaci siamo stati tutti molto responsabili. Quasi mai, anzi mai avete visto sindaci litigare tra di loro. Abbiamo accettato le regole, le leggi, le linee, però diciamo anche quelle di cui c'è bisogno nei nostri territori. C'è bisogno di risorse per farci ripartire, perché se non ripartono le città non riparte neanche tutto il paese. Tra l'altro Firenze, insieme anche alle altre città, in particolare Firenze, è una città meravigliosa, come tutti sappiamo, conosciuta in tutto il mondo, ha grandissima vocazione d'arte, no? Come una meta turistica per l'arte, per quello che rappresenta. E che cosa ha significato questa crisi, non avendo tutti questi turisti, no? Grande vocazione turistica, mancando tutti questi turisti, lei dice, quindi la crisi si fa sentire molto forte. Beh sì, tra l'altro la lettera che lei citava è stata firmata proprio dai primi cittadini delle città, simbolo della cultura, del turismo, dell'economia congressuale, fieristica del paese. Perché? Perché il turismo è davvero la prima vittima economica di questa emergenza e di questo virus. Non solo per quel che riguarda i mesi trascorsi, ma anche per i prossimi mesi. Noi da febbraio non abbiamo più visitatori a Firenze, ma prevediamo che da qui alla fine dell'anno si potrà riprendere forse il 30% dei flussi normali. Quindi il danno già registrato sul fronte del turismo nell'area fiorentina è 1 miliardo di euro. Per quanto riguarda l'export, mi riferisco alla moda, alla manifattura, nella quale siamo un'eccellenza, calcoliamo, lo ha fatto la Camera di Commercio di Firenze, calcoliamo 5 miliardi e mezzo di euro di danni. Per il futuro, appunto, continuerà ad esserci un flusso turistico molto basso, e i comuni subiscono il doppio danno, quello economico e quello anche dell'assenza degli introiti da imposta di soggiorno. Anche qui l'Associazione dei Comuni Italiani ha calcolato in modo molto oggettivo, corretto, che il deficit per mancato introito dell'imposta di soggiorno è di 700 milioni di euro. E abbiamo chiesto al governo di fare lo sforzo di creare un fondo per ripianare almeno una parte di questo mostruoso deficit, perché con quei soldi i comuni non ripianano i buchi, ma garantiscono quei servizi essenziali come la pulizia della città, il trasporto pubblico, che un domani serviranno anche ad accogliere, come doveroso, i turisti che speriamo tornino in gran numero nel nostro paese. Lei insieme agli altri sindaci chiedeva da tempo, questa è l'ultima lettera appello, mi pare che chiedesse da tempo che nel decreto aprile, che adesso è diventato decreto rilancio e che ancora insomma diciamo deve essere approvato, ci fossero per i comuni almeno 5 miliardi di euro, invece sembra che siano stati per il momento nulla di ufficiale stanziati, meno soldi, meno fondi, sindaco Nardella. Esatto, noi apprezziamo lo sforzo del governo e del presidente Conte, però abbiamo detto con grande chiarezza che le risorse di cui si è parlato fino ad oggi non sono sufficienti. Non chiediamo un euro in più di quello che ci è mancato. E infatti abbiamo detto più volte che 5 miliardi di euro sono, per quanto riguarda i calcoli che tutti noi sindaci abbiamo fatto, la soglia minima di ristoro di tutte le mancate entrate. Stiamo parlando della tassa dei rifiuti, ma ormai non la stiamo chiedendo, né soprattutto alle imprese. Parliamo del canone del suolo pubblico, anche questo è stato già annullato e sarà annullato per i prossimi mesi, anche questa però è una tassa locale. Parlavo prima dell'imposta di soggiorno, le multe non sono più arrivate, di fatto da 3 mesi a questa parte nelle casse dei comuni italiani non entra più niente, eppure in questi mesi abbiamo garantito la pulizia delle città, il trasporto pubblico, i servizi essenziali, il supporto agli anziani, il supporto alle famiglie bisognose. Vorremmo solo che si tenesse conto di questo e che si avesse la consapevolezza che l'ossatura del paese è fatta da quegli 8.000 comuni, piccoli e grandi, che quotidianamente lavorano per i loro cittadini. Sindaco Nardella, tra l'altro oggi è stata una protesta a Firenze di centinaia di ristoratori, no? E anche di, sono scesi in piazza anche gli ambulanti, è stata una giornata abbastanza movimentata, quindi la sua città. Non mancheranno, continueranno purtroppo queste manifestazioni, a meno che non arrivino indicazioni chiare e diciamo aiuti consistenti, come mi auguro, da questo diciamo ormai attesissimo decreto. Quello che chiedono gli imprenditori non è solo la data di apertura, perché in assenza di una prospettiva chiara e anche di diciamo quegli strumenti minimi per riaprire, diventa anche difficile immaginare la riapertura il 18 maggio. Io ad esempio non sono in grado di aprire i musei di Firenze, i musei comunali di Firenze il 18 maggio, non ho le risorse per farlo, e i ristoratori di oggi hanno detto che in queste condizioni non potranno riaprire, perché hanno affitti arretrati da pagare, però essendo rimasti chiusi non hanno potuto guadagnare nulla. Non arriva ancora del tutto la cassa integrazione dipendenti. Un imprenditore oggi mi ha detto che per anticipare i soldi della cassa integrazione dei dipendenti ha dovuto chiedere un prestito in banca che ha previsto 0,50 di spese di pratica e 2,7% di tasso di interesse, nonostante che questo imprenditore avesse un buon rating. Anche qui il sistema finanziario e bancario deve essere più vicino alle imprese. È tutto questo che rende difficile anche immaginare una riapertura forte, ordinata e diciamo incisiva. Ci vuole una prospettiva più chiara e una serie di strumenti di supporto concreto, sia fiscali che bancari, che di contributi a fondo perduto per le imprese che non vogliono assistenzialismo. Anche io da sindaco non voglio né fare la carità né chiedere assistenzialismo, vorrei solo essere messo in condizioni di far ripartire questa bellissima città che è Firenze, che ha un grande orgoglio, ha tanta energia e ha anche la mentalità per vincere diciamo momenti difficili che non sono mancati nella nostra storia. Penso all'alluvione del 66, alla bomba dei Gergofili. Il nostro è un popolo forte, ma deve essere aiutato un minimo, quella minima parte essenziale per ripartire. Io sono molto molto attaccata a Firenze, anche perché lì ho vissuto la mia infanzia. Sindaco Nardella, però al di là di tutti questi problemi, e spero che dal governo arrivino presto delle risposte, voi avete scritto in questi giorni questa ennesima lettera, vi aspettate insomma che da questo decreto rilancio venga fuori qualcosa di che sia il più possibile attinente alle vostre richieste, no? Senta, però devo dire che per chiudere, diversi ascoltatori e ascoltatrici, Roberto da Modena, Laura, Luigi da Venezia, eccetera, mi dicono: il sindaco Nardella, per alleggerire, sa, è un ottimo violinista, di solito ha sempre sotto mano l'archetto. È vera questa cosa? Sindaco? Sì, è un suo talento. In questo periodo di quarantena, per suonare più del solito, visto che ho passato una vita intera da quando avevo 7 anni a studiare il violino, questo è vero. Sì. Ringrazio gli ascoltatori che sottolineano questo aspetto mio personale. La sua vena artistica, che il momento, perché per il momento non si sente di esprimere, però in questo. Ora non ce l'ho a portata di mano, purtroppo. Peccato, però non colto l'occasione. Mi impegno per la prossima volta. Volentieri, allora l'avviso per tempo. Intanto, grazie, un abbraccio a lei e alla città di Firenze, sindaco Dario Nardella. Grazie, davvero. Grazie. E buon lavoro. Bene, ci fermiamo molto momentaneamente, lo sapete, perché poi torno ratta come la folgore per i vostri messaggi, i vostri sms, pagina Facebook 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte, e poi ancora vari messaggi, chi pro, chi contro, insomma, sempre sulla questione di Silvia Romano, poi su questo torneremo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, per avere a fine giornata un quadro sempre il più possibile esauriente e chiaro di tutto ciò che di più importante è già sapere dall'Italia e dall'estero. Roberto Giordano a raccontarvelo e poi ad approfondire vari temi con gli ospiti. Per i vostri messaggi sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666. Paolo da Milano dice: fantastico, i sindaci si lamentano per i mancati introiti delle multe, potrebbero mettersi a multare i pedoni, perché no? Paolo, comunque in realtà il sindaco di Firenze Nardella ha parlato di tanti tanti aspetti importanti, poi fra le altre cose anche questo, nel senso che quindi la polizia locale ha evitato di multare per piccole infrazioni, parcheggi eccetera, visto anche la situazione è così difficile, anche per il fatto che poi non potendoci muovere di casa, insomma, più difficile, no, fare ovviamente delle sanzioni per quanto riguarda il codice stradale, ma questo era soltanto un piccolissimo aspetto rispetto a tutto quello che ci ha raccontato. Mentre vedo che Di Maio, a proposito di Silvia Romano, dice: non mi risultano riscatti. Adesso naturalmente vedremo con le inchieste eccetera che cosa si chiarirà. Sappiamo comunque che per quanto riguarda l'Italia, a differenza, non so, della Gran Bretagna o degli Stati Uniti, più o meno li ha sempre pagati i riscatti. Non lo sappiamo in questo caso, però diciamo che è una pratica accettata dal nostro paese per riportare in Italia i nostri connazionali. Pensate per esempio che Israele è disponibile a uno scambio di 1-100, cioè per avere un cittadino israeliano è disponibile a dare 100 prigionieri palestinesi. Quindi insomma nulla di cui meravigliarsi. Adesso però dicevamo, allora abbiamo parlato con il sindaco di Firenze Nardella di questo lettera appello dei comuni al Presidente del Consiglio, al governo, abbiamo parlato anche ieri con Stefano Bonaccini a proposito delle regioni che chiedono di velocizzare le riaperture, i comuni chiedono fondi per non fallire, le imprese chiedono aiuti e lamentano tra l'altro le imprese del turismo che su spiagge e ristoranti ci sono delle linee guida da parte del governo insostenibili, che non sono praticabili, che anzi provocherebbero gravi danni a tutto il settore. Allora, saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. E alle 20, adesso non so, sono le 21.39, era ancora in corso, dopo 7 ore, la riunione del preconsiglio dei ministri, no? Con tutti i tecnici, tutti i ministeri, per vagliare il testo del famoso decreto rilancio, che ha cambiato nome, sarebbe l'ex decreto aprile, ma essendo maggio adesso si chiama decreto rilancio, così comunque vada avanti, non è, diciamo, vincolato a un mese in particolare. Però a quanto si apprende sarebbero stati esaminati oltre la metà degli articoli che compongono il testo, che, dicevamo prima, è enorme, è pieno di articoli, di temi, di argomenti, eccetera, però non si sarebbe ancora discusso dei temi, due temi delicati che sono le coperture della cassa integrazione e soprattutto la regolarizzazione dei braccianti immigrati, che è diventato terreno di scontro tra Partito Democratico e Italia Viva in particolare e Movimento 5 Stelle. Barbara, a che punto siamo, vista che tutti chiedono giustamente da tutte le parti le istanze, le esigenze che abbiamo sentito, a che punto siamo con questo decreto rilancio? Siamo, come tu dicevi, che ancora oggi e ancora a quest'ora non sappiamo se questa notte ci sarà o meno un Consiglio dei Ministri. Quindi non sappiamo se già questa notte appunto avremo il varo del decreto da parte del Consiglio dei Ministri oppure no. Dopodiché è sconcertante, a mio parere, ovviamente soltanto il mio parere, che in una situazione di questa gravità, con la liquidità alle imprese e ai lavoratori che non è stata ancora erogata, nel senso che sappiamo benissimo che la cassa integrazione è ferma, nel senso che le procedure sono talmente, come dire, farraginose, complesse, tant'è che le vogliono modificare, a maggior ragione a conferma di questo, che i lavoratori non hanno avuto soldi, le imprese che si sono rivolte alle banche, abbiamo visto che ci sono stati una marea di problemi anche lì. Quindi, poi non si capisce se il problema è delle banche, se invece... di tutti questi fondi che sono stati elencati non è arrivato un euro oppure in pochissime tasche sono arrivati i soldi. Barbara, a questo quindi, proposito, scusa, della complessità di questo decreto rilancio, sentiamo Misiani del PD, vice ministro dell'economia, che cosa ha detto oggi. Il provvedimento è addirittura d'arrivo, è una manovra di grande complessità che vale tre volte l'ultima legge di bilancio. Abbiamo dovuto sciogliere nodi politici importanti, ma anche affrontare questioni di una notevole complessità tecnica. È un lavoro che ci ha impegnato parecchio, ma che stiamo portando a termine in queste ore. Sentirei poi dall'opposizione Bernini di Forza Italia. Questo decreto è una colossale presa in giro. Servono soldi veri per le famiglie, aiuti a fondo perduto per le imprese, non crediti d'imposta, altrimenti l'Italia non riparte. Quindi Barbara, sicuramente è un provvedimento estremamente complesso, una manovra economica praticamente da 55 miliardi, la più grossa che sia mai stata fatta in Italia dal dopoguerra, quindi diciamo gli elementi di difficoltà ci sono. Sì. Sulla complessità non c'è dubbio, Roberta, il punto è proprio questo che sottolineavo, cioè stanno litigando in modo furioso per la questione della regolarizzazione dei migranti. Allora, mentre ho visto distruggere campi di coltivazioni, di raccolti, perché la roba marcisce, non si può raccogliere, non si può vendere a prezzi. Ma al di là del merito di questa vicenda, secondo me è scandaloso che le forze politiche di governo, che la maggioranza, come dire, rimanga in un impasse come questo, perché in realtà c'è solo una ragione di carattere, come posso dire, politico-elettorale, cioè i 5 Stelle che non vogliono far vedere che sono, come dire, per non trovarsi poi Salvini che gli dice avete tradito, eccetera, eccetera, oppure Italia Viva, cioè non mi interessa, vado oltre il merito, non mi interessa proprio il merito di questa vicenda, nei giorni scorsi peraltro ho già detto come la penso, però al di là del merito è impressionante, ed è anzi secondo me è scandaloso che ci si fermi rispetto a una vicenda importante, importantissima, ma che blocca sostanzialmente quelle che dovrebbero essere degli aiuti per respirare, cioè per consentire al paese di continuare a respirare, perché noi in questo momento siamo come se fossimo tutti in terapia intensiva, no? E c'è la bombola d'ossigeno che sta terminando, anzi forse è già finita, e c'è qualcuno che litiga se usare la siringa tale o l'altra. Ecco, mi sembra un po' paradossale la situazione, quindi secondo me c'è una gravità proprio da un punto di vista, non lo so, mi viene da dire etico-politico, cioè come se non sapessero dove stanno. E questo secondo me è molto grave, e credo che questa cosa, se non si risolverà nelle prossime ore, io credo che avrà delle conseguenze anche rispetto a, come dire, al consenso che finora è stato molto alto per il governo e per il Presidente del Consiglio, perché cose del genere non sono credibili in una situazione come questa. è veramente, lo ritengo molto grave. Dopodiché è evidente che la situazione è difficile, nel senso che è vero che è una manovra complessa ed è anche vero purtroppo che tutta una serie di storture che ci sono in Italia, ritorno alla storia della cassa integrazione, ma perché è emblematica, potrei parlare di quella delle banche, cioè noi abbiamo una serie di regole e lo vediamo anche noi cittadini nella vita di tutti i giorni, no? Che ci complicano la vita e sono fatte perché si ritiene che in questo modo, molto spesso sono perché così si controlla meglio. In realtà non si controlla nulla, perché ad esempio sulla cassa integrazione c'è un rimpallo di responsabilità tra regioni, governo, no? Tra regioni ed INPS, che a oggi nessuno può dire è colpa di uno e colpa dell'altro, e quindi non è colpa di nessuno. Fatto sta che il risultato è che i lavoratori che da 2 mesi non lavorano non hanno un euro sul loro conto corrente. Sì, ci sono diversi messaggi in questo senso. A mettere insieme il pranzo con la cena. Però, ecco, ripeto, rispetto a questa drammaticità, uno si aspetterebbe uno scatto, non lo vedo questo scatto, perché poi quando sento delle dichiarazioni noi non possiamo tornare indietro, noi non pensiamo, cioè come se fossimo in un periodo normale, qui di normale non c'è niente. Anche la stessa storia della cassa integrazione o dei prestiti delle banche, cioè è evidente che magari in un periodo normale, tra virgolette, perché non è mai normale quando un'azienda chiede la cassa integrazione per i propri dipendenti, vuol dire che è in crisi, però diciamo in un periodo normale ti aspetti quei 2-3 mesi, perché anche nei periodi normali non arriva la cassa integrazione subito, aspetti quei 2-3 mesi e si va avanti. Ma qui si sapeva benissimo che sarebbero state milioni le richieste. E perché non ci hanno pensato prima a rivedere la procedura, come adesso faranno? Barbara, e perché allora l'INPS non ha cominciato subito a gestirla questa vicenda, invece di questo rimpallo di responsabilità con le regioni? Perché poi ci sono regioni che hanno lavorato molto bene e regioni che non hanno lavorato bene. Barbara, a questo proposito, siccome prima c'era il sindaco Nardella di Firenze, che è un talento del violino, però non ha potuto suonare alla fine il violino perché non c'era lì presente, tu puoi suonare il clacson a questo governo in modo che magari anche il Consiglio dei Ministri si velocizzi e si dia il via libera a questo decreto rilancio, per rilanciarlo? Rilancia un clacson? Guarda, Roberta, io mi prenderei anche 24-48 ore in più, ti dico, purché si arrivi a un punto. No, ma non solo, ma che sia applicabile, perché se è come l'altro decreto che lo hanno fatto e poi appunto la cassa integrazione non arriva, i prestiti alle imprese non si fanno, cioè non serve a niente, cioè diventano dei titoli, degli annunci, anzi fanno anche rabbia secondo me, perché poi alla fine producono rabbia, perché senti 50 miliardi, 100 miliardi, però poi se poi le persone vivono, rimangono all'asciutto, chiaramente. Sì. Barbara, suona il clacson, mi raccomando, ci sentiamo presto e ci aggiorniamo su questo, va su bene, eventuali risultati ed effetti. Ciao Barbara Fiammeri, c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. È arrivata oggi, Roberta Giordano, sempre con voi, una notizia importante che segna finalmente un passo in avanti nel caso del giovane allievo paracadutista della Folgore, originario di Siracusa, Emanuele Scieri, morto il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. La Procura Militare di Roma ha detto che il giovane militare fu ucciso da 3 caporali che, per punirlo perché stava telefonando, lo percossero, lo costrinsero a salire su una torre da cui lo fecero cadere e lo lasciarono agonizzante a terra. Il parascieri quindi fu ucciso e sono state chiuse le indagini sui 3 caporali. Ma ne voglio parlare con Carlo Varoni, giornalista della Nazione, edizione di Pisa, che se ne è occupato da tempo. Buonasera Carlo. Buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Farei sentire intanto che cosa ha detto oggi il legale della famiglia di Emanuele Scieri, sentiamo. È una grande soddisfazione di aver completato un percorso molto lungo che era iniziato 20 anni fa. E saremo sicuramente più soddisfatti se poi ci sarà un risultato concreto dopo il giudizio. Carlo, tra l'altro è stato appunto un percorso di 21 anni per cercare di arrivare alla verità, mi pare anche con qualche depistaggio, omissioni eccetera, che hanno molto intralciato, no, il percorso della giustizia. Questa è una storia passata anche tra da diverse archiviazioni delle prime inchieste che arrivarono a, diciamo, ad un punto morto, presunte omertà, insabbiamenti, fino alla svolta con il lavoro della commissione parlamentare d'indagine, le cui conclusioni poi hanno dato la spinta all'inchiesta della Procura ordinaria di Pisa, che è tuttora aperta, e quindi anche a quella della Procura generale militare della Repubblica di Roma, che però è già arrivata a conclusione. Quindi, Carlo, gli indagati sono i tre caporali Andrea Antico, Alessandro Panella e Luigi Zabara o Zabara, accusati, sì, di violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato in concorso. Quindi adesso partirà un processo. Ora ci saranno i tempi tecnici, e poi la procura cercherà la fissazione, la procura militare cercherà la fissazione dell'udienza preliminare. Ritiene la propria competenza sul caso, proprio perché si sarebbe trattato di violenza di superiore ad inferiore nell'ambito dell'espletamento del loro servizio, e quindi secondo loro si applica il codice militare di pace, per cui la competenza è della giustizia militare. Ecco, in questo, mentre la procura ordinaria sta proseguendo con una propria inchiesta che è alle battute finali, manca solo la superperizia che la procura di Pisa ha commissionato alla professoressa Cattaneo, che è stato la Cattaneo, famosissima, certo, sempre tutte queste inchieste. Abbiamo potuto apprendere un lavoro molto importante, molto approfondito, anche sui resti riesumati di Emanuele Sceri. Dovrebbe essere questione di giorni il deposito della consulenza. Poi sappiamo che diciamo, anche per la procura ordinaria il cerchio potrebbe essere chiuso con la conclusione delle indagini. Resterà da vedere l'eventuale processo, se ci sarà un processo, dove si farà, se davanti alla giustizia militare o se davanti il Tribunale Ordinario di Pisa. Chiaro, Carlo Varoni, l'importante è che davvero dopo più di 20 anni la povera famiglia di questo povero ragazzo, Emanuele Sceri, abbia finalmente giustizia. Lo speriamo. Hanno lottato tantissimo. Tantissimo, tantissimo. E quindi ci aggiorniamo appena possibile, sperando, insomma, che si proceda più celermente possibile. Grazie Carlo Varoni, cronista grazie della Nazione. Buon lavoro, grazie Carlo. Buon lavoro, grazie a voi. Ciao. Adesso invece con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Torniamo sulla liberazione, lo sapete, dopo un anno e mezzo, l'arrivo poi a Milano ieri di Silvia Romano, cooperante milanese di 24 anni, rapita in Kenya nel 2018, non è un paese in guerra, che tanti sta scrivendo un paese in guerra, ci sono persino, c'è anche il resort di Briatore, ci sono ville di italiani, quindi lì si va anche per turismo, è stata rapita dai terroristi islamici di Al-Shabaab, è liberata appunto 3 giorni fa. Una cosa voglio dire, prima di parlare con Raffaella delle inchieste su questo caso, anche un'inchiesta della Procura di Milano sulle minacce di morte, gli insulti terribili che le sono stati rivolti sul web. Chi ha travolto di insulti, di minacce Silvia Romano, tornata da un inferno di un anno e mezzo, io ho detto nemmeno mostruoso dei terroristi che l'hanno tenuta come un animale in cattività, perché è stato un altro modo diverso di lapidarla. Probabilmente tutti questi miserabili che la stanno insultando e minacciando di morte, se non ci fosse il deterrente della galera anche in Italia, chissà che magari non agirebbero invece che con le parole, con le pietre. Comunque, detto questo, Raffaella, andiamo sulle inchieste. È un'inchiesta riguarda proprio i leoni da tastiera, a cui facevi riferimento. Chiamiamoli anche vermi da tastiera, sì. A cui facevi riferimento poco fa. Sono 2 le inchieste aperte in Italia sul caso di Silvia Romano. La principale a Roma riguarda proprio il suo sequestro e in questo momento, dopo il suo ritorno, dopo anche il suo interrogatorio, verte proprio a ricostruire i contatti che ci sono stati tra il comando che l'ha rapita nel novembre del 2018 in Kenya e il gruppo terroristico Al-Shabaab che poi l'ha tenuta prigioniera in Somalia. Contatti che, stando anche a tabulati telefonici, ci sarebbero stati anche già prima del sequestro, a conferma dunque di un sequestro che era avvenuto su commissione. La seconda inchiesta invece è stata aperta qui dalla Procura di Milano proprio per minacce aggravate dopo quest'onda d'odio che è stata riversata contro la cooperante milanese, soprattutto sui social, ma anche con lettere e volantini. Tanto è vero che uno dei fronti che il PM, il capo dell'antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili, adesso vuole verificare è anche anche quello dell'esistenza di eventuali legami tra gli autori di questi messaggi e gruppi di estrema destra. Per questo oggi Silvia Romano è stata sentita dal magistrato milanese e insieme al carabinieri del ROS, insieme alla madre. Lei ha detto di essere tranquilla nonostante queste minacce, ha raccontato anche a loro la sua adesione spontanea all'Islam, ma è stata proprio questo velo e questa tunica che lei indossa uno dei motivi dell'odio nei suoi confronti, insieme all'appagamento appunto di cui si parla del riscatto, infatti, uno dei motivi appunto che potrebbero anche portare a delle aggravanti in questa inchiesta dettate proprio se ci dovesse essere confermata una, diciamo, un'origine di queste minacce nei suoi confronti legata ad alcuni ambienti anche di espressione di estrema destra. Ci sono stati anche dei casi di alcuni post di un consigliere leghista, di un altro di Fratelli d'Italia che di posto poi rimosse su cui ora si indaga, così che appunto la ragazza rientrata in Italia adesso in qualche modo è oggetto anche di questo tipo di un interessamento di cui avrebbe fatto volentieri. Incredibile, adesso Di Maio ha detto è stata liberata dai terroristi adesso per rischiare di avere una scorta in Italia, che è veramente una follia. Ecco, noi ci riteniamo depressi, deprivati, svuotati per aver passato 2 mesi e mezzo in casa per la storia del coronavirus e non poter uscire, ma comunque tra le nostre cose, nella nostra quotidianità, con i nostri affetti, chi più chi meno, al di là di chi ha subito dei lutti, no? Noi depressi e deprivati per 2 mesi e mezzo a casa, figuriamoci che cosa significa psicologicamente un anno e mezzo in mano a questi mostri. E non a caso il padre oggi ha detto che quel sorriso di Silvia, sicuramente felice di essere ritornata in Italia, non è che significhi che lei stia del tutto bene, perché ovviamente vive come può vivere una persona che per 18 mesi è stata tenuta prigioniera. Come un animale in cattività. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella, buona serata. E noi ci risentiamo alle 22.